Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. One nil up. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci alla nostra finestra sul cortile. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Oggi parleremo di veli e di veline, di donne liberate e di donne sottomesse o schiave dell'uomo. Sempre più spesso nelle società multietniche l'emancipazione vera o presunta della donna occidentale si confronta con la condizione femminile del mondo arabo islamico, delle comunità musulmane immigrate. Perché la donna velata suscita tanta diffidenza? Dobbiamo aiutarla a liberarsi di un'imposizione arcaica oppure rispettare un simbolo identitario liberamente scelto? Questo sarà uno dei temi della trasmissione di oggi, ma parleremo anche di libri e di librai e della storia, in particolare di una celebre catena francese di librerie presente anche in Italia. Ma prima di tutto ascoltiamo che cosa prevede il sommario di oggi. Francia. Fnac, la prima rivoluzione in libreria. America. Affittasi uomini d'affari occidentali, una questione d'immagine per le imprese cinesi. Visti dagli altri. Argentina. Valerio Massimo Manfredi, un successo epico. Germania. Le donne? Meglio velate che veline. Inghilterra. Alle Galapagos tornano le tartarughe giganti. Ti stanno sul culo i libri, sono troppo cari. Ma è normale che la gente se ne compra uno all'anno e si compra Umberto Eco, che ne so. E poi mi stanno anche molto sul culo queste librerie, con questi commessi bastardi che appena entri, capito, ti dicono desidera. Scusi, c'è un libro che sto cercando ma non riesco a trovarlo. Forse meglio. Dica, signora, dica pure. Grazie. C'è un libro che vorrei, me l'ha consigliato una collega a scuola, sì. Però mi dispiace, non ricordo l'autore. Mm-hmm. Il titolo era La profezia dei Celestini. La profezia dei Celestini. Dunque, signora, temo ci sia un piccolo problema di confusione sul titolo. Allora, lei si confonde fra La compagnia dei Celestini, Stefano Benniff, e La profezia di Celestino, James Redfield. Deve sapere che il libro di James Redfield, La profezia di Celestino, è un libretto New Age del cazzo. E noi qui i libretti New Age del cazzo non li abbiamo. Invece, La compagnia dei Celestini è un bestseller e noi qui bestseller non ce li abbiamo, abbiamo solo libri di qualità, è chiaro? Sì. Prego, grazie signora, si accomodi, quella è la porta. Era una scenetta un po' sboccata dal film Santa Maradona con Stefano Accorsi, che rappresenta in maniera satirica quello che è spesso il rapporto tra il lettore un po' sprovveduto, intimidito, e il libraio che invece così in qualche maniera tiene al suo ruolo e cerca di mantenere le distanze. Ma proprio di librerie, di libri, parleremo in questa prima parte della finestra sul cortile, a partire da un articolo comparso sulla rivista francese online La Vie des Idées, a proposito di un libro che è appena uscito in Francia sulla storia della Fnac, la famosa catena di librerie francesi ormai presente anche in Italia. Il libro è di Vincent Chabot e è intitolato La Fnac entre commerce et culture, pubblicato dal Presse Universitaire de France a Parigi. In questo libro Vincent Chabot ripercorre insomma le vicende di questa iniziativa fondata nel 1954 da André Sell e Max Theré, animati da ideali trotskisti che quindi si proponevano di dare accesso ad una nuova classe media ai beni culturali, la nuova classe media del dopoguerra, fatta di giovani avidi di segni distintivi del loro status sociale, che volevano in qualche modo ottenere anche dei libri e dei prodotti culturali a prezzi più bassi. E proprio questa idea della ribasso dei prezzi e dell'accessibilità era l'origine della FNAC. Poi la FNAC nel 1990 è stata acquisita dal finanziere François Pinault e ormai la logica è completamente rovesciata rispetto a quella delle origini, cioè quella che doveva essere una rivoluzione nel segno degli ideali socialisti è diventata in qualche modo il braccio armato dell'industria editoriale in cui conta soprattutto il profitto. L'importante è vendere e vendere soprattutto best. Ma intanto diamo il benvenuto al nostro ospite che ringraziamo di essere qui con noi alla Finestra sul Cortile. Buongiorno Romano Montroni. Buongiorno. E Romano Montroni è il libraio per eccellenza, ha scritto anche un libro Libraio per caso che è stato pubblicato da Marsilio con le sue memorie, perché è da parecchio sulla breccia, insomma. Parecchio. È stato per molti anni direttore delle librerie Feltrinelli. Adesso è consulente della catena Coop, che anche questa è una catena importante di librerie, tra l'altro a Bologna, dove lui risiede, c'è una libreria molto bella dove si può anche mangiare, bere, comprare dei prodotti tipici, no? Quindi si associa il benessere dello spirito a quello del corpo. Quindi noi oggi parliamo con Montroni della concorrenza, ecco, della FNAC. Lei conosceva queste origini trotskiste della... Proprio l'ho seguita tutta, diciamo, anche in parte virtualmente, perché allora non ero mai stato a Parigi, ma sapevo l'origine, cioè questi due signori che hanno messo in piedi questa catena, alla quale devo dire che anche il progetto Feltrinelli in quei tempi si ispirava. Si ispirava. Sì, aveva la caratteristica di avere una forte attrazione per il mondo dei giovani, degli studenti, erano punti di riferimento per diciamo i movimenti e tutti quelli che si interessavano di scrittura, letteratura e editoria, e la Feltrinelli nacque con quei presupposti, diciamo. Sì, quindi come una cultura alternativa tendenzialmente, sì. Diciamo, se non rivoluzionaria, quantomeno progressista. Sì, che, era dissacrante, diciamo, rispetto ai modelli delle librerie, che erano delle specie di cenacoli del sapere, strutture molto chiuse, mentre invece quel progetto, come poi fu applicato in Italia da Gian Giacomo Feltrinelli, erano librerie estremamente aperte, non esistevano addirittura le porte. Io mi ricordo in quegli anni 65, insomma, le prime librerie importanti nacquero in quegli anni in Italia, avevano la caratteristica che erano librerie aperte, dove la gente poteva entrare, nessuno gli chiedeva con un tono sacrale possa esserle utile, cioè, ecco, esattamente proprio... come c'era nella scenetta che abbiamo ascoltato. Sì, appunto. Sì, sì. Molto divertente, conosco quella scenetta, lo faccio vedere nei corsi che facciamo per gli allievi librai. Come esempio negativo. Come esempio negativo, esatto. Ecco, ma voi che cosa fate per evitare questo, diciamo, questo distacco e questo aspetto un po' intimidente della libreria? Cioè, per esempio, come selezionate il personale delle vostre librerie? Adesso vuol dire che tutti quelli che manifestano la voglia di entrare in una libreria, diversamente da quello che era quando io ho iniziato questa storia, sono tutti giovani laureati e super laureati. Intanto, ecco, questo grado di spessore culturale è molto più ampio rispetto a quello che, diciamo, era una volta nel secolo scorso, perché in fondo siamo in un nuovo secolo. E dopo così un'attenta selezione che avviene attraverso conversazioni per capire il grado di interesse che loro hanno rispetto al mondo dei libri, si mettono in corsi che possono durare circa 3 mesi, dalle 4 settimane ai 3 mesi, dipende dalla necessità che abbiamo di aprire la libreria, si cerca di fargli conoscere, diciamo, tutto il mondo dei libri, quindi che va dalla ricchezza dei cataloghi editoriali fino a fargli conoscere cosa genera un buon lavoro in questo campo, cioè genera un margine attivo che possa permettere di far vivere quella struttura, quindi un coinvolgimento ad ampio raggio quelle che sono le caratteristiche gestionali di una libreria. E soprattutto ecco, cercare di mettere a proprio agio i clienti, magari offrendogli un caffè, come avviene per l'appunto nella vostra libreria di Bologna. Bene, noi ringraziamo Romano Montroni, buona giornata e a presto. Grazie. Affittasi manager bianco. Sulle pagine di Atlantic, il mensile americano, c'è una curiosa storia di Mitch Moxley che racconta di essere stato assoldato da una misteriosa azienda americana in Cina come esperto di controllo di qualità e con un solo requisito: di essere di carnagione chiara e di avere un bel vestito e una bella cravatta. Dopodiché sarebbe stato pagato $1,000 alla settimana, messo in un magnifico hotel, nutrito e spesato di tutto in una cittadina della provincia del Shandong. In realtà poi ha scoperto che il suo ruolo era semplicemente quello di comparire nelle riunioni d'affari accanto ai manager, agli imprenditori cinesi, per dare una immagine di connection di internazionale all'azienda locale. In pratica, insomma, è come se fosse nato il manager escort, il finto uomo d'affari, il velino in giacca e cravatta. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. E siamo al nostro appuntamento settimanale con gli italiani famosi all'estero ed è la volta dell'Argentina. La corrispondente dall'Italia della Nación, Elisabetta Piquet, è andata a Modena, a casa di Valerio Massimo Manfredi, uno dei fenomeni editoriali più importanti degli ultimi anni, l'autore della serie Alexandros, che ha venduto 6 milioni di copie, è stata tradotta in 36 lingue in 55 paesi. Intervista il nostro scrittore, che tra l'altro è stato appena tradotto in spagnolo, in Argentina, il suo Idi di marzo, un thriller politico sull'assassinio di Giulio Cesare, che in Italia era già uscito nel 2008 da Mondadori. Tra le altre cose, Valerio Massimo Manfredi racconta in questa intervista che la serie Alexandros l'aveva scritta 1175 pagine in soli 11 mesi, una cosa che fa inorridire chiunque pensi che la scrittura richieda un lungo lavoro di sedimentazione. La finestra sul cortile. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango. Avrete certamente riconosciuto la voce di Patti Pravo nella sua canzone La Bambola, una canzone che ha segnato il 1968 e che diventò un successo internazionale con oltre 9 milioni di copie vendute. Si capisce perché, non soltanto perché lei era ed è bravissima, ma perché questa canzone rifletteva un po' gli umori e le aspettative di una generazione di ragazze arrabbiate in lotta per i propri diritti e la propria dignità. Ma proprio con la canzone di Patti Pravo entriamo nel secondo argomento di questa puntata della Finestra sul Cortile, un argomento che prendiamo dalla Süddeutsche Zeitung, dove l'etnologa Ingrid Turner spezza una lancia a favore delle donne velate. Potremmo dire meglio velate che veline. Sappiamo il velo islamico è da anni al centro di polemiche, un tormentone di dibattiti accesi in Francia e anche da noi. L'onorevole Santanché ha passato un brutto quanto d'ora con un gruppo di donne musulmane perché tentava di strappargli il velo dal volto. Ma cos'è il chador? È il simbolo di un orgoglio identitario oppure un segno di barbarie e di sottomissione delle donne al potere maschile? Ecco, secondo Ingrid Turner, questo sentimento predominante del mondo occidentale di fronte a una musulmana, questo malcelato fastidio, addirittura aperta ostilità, è sbagliatissimo, perché anziché guardare la pagliuzza nell'occhio del vicino islamico, sarebbe più opportuno svolgere una riflessione profonda sulle vere conquiste del femminismo occidentale. Perché se la libertà maggiore della donna di oggi nei paesi europei sviluppati sembra essere soprattutto quella di poter scorrazzare seminuda in televisione, allora forse un velo di pudore può aiutare meglio l'emancipazione. Ma intanto saluto il nostro ospite. Buongiorno Massimo Fini. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Massimo Fini, una delle penne più micidiali del giornalismo italiano, tra l'altro dirige un mensile, La Voce del Ribelle, ribelle al mondo moderno, no? E quindi anche al femminismo, così faremo un po' arrabbiare le femministe. Ha appena pubblicato una raccolta dei suoi articoli dai primi anni Ottanta a oggi, intitolato Senz'anima, da chiare lettere, in cui tra l'altro abbiamo trovato dei ritratti spietati ed esilaranti di molti VIP della politica e della cultura. Ecco, ma Massimo, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni. Ecco, cosa ne pensi delle tesi di questa Ingrid? Perché a me, francamente... Sono assolutamente d'accordo. Lo immaginavo. No, in due sensi. Uno, che c'è questa aggressività del nostro mondo nei confronti del mondo musulmano, per tante cose, ma in particolare sul discorso delle donne, a tal punto che il velo, il chador, che non è mai stato un problema delle donne musulmane, io mi ricordo, sono stato a lungo in Iran, ho parlato con donne, dice guarda che il velo è un problema occidentale, non sono questi i nostri problemi di donne qui noi in Iran. Ma comunque con questa aggressività non abbiamo fatto altro che aumentare, come si può dire, faccio un esempio, tre giornaliste egiziane che non si erano mai sognate di mettersi il velo, si sono presentate in televisione col velo. Giornalisti televisive, no? Poi dopodiché sono state licenziate, per dirti poi come si rovesciano le cose della sì, libertà. Sì. Quindi c'è questa nostra aggressività sul fatto che la donna musulmana dovrebbe omologarsi a quella occidentale, che è un totalitarismo concettuale notevolissimo. Dall'altro canto mi pare che in Occidente la donna abbia perso la sua antica sapienza, perché voglio dire, quando nei primi del Novecento lei saliva sul tram e doveva sollevarsi la lunga gonna e mostrava la caviglia, il maschio impazziva. Adesso che sono tutte seminude è chiaro che non c'è assolutamente più questo effetto, e non è un caso, secondo me, non dipende solo da questa aggressività, diciamo, corporale, ma una aggressività più complessiva che... I maschi stanno diventando tutti finocchi, insomma. Ecco, ma a parte, diciamo, a parte le battute, ecco, sì. Dico, ma il fatto che il velo sia una scelta, una libera scelta della donna, in molti casi può essere vero, però purtroppo le cronache ci hanno abituato a vedere casi invece di donne maltrattate o addirittura uccise dai padri perché vestivano all'occidentale, quindi perché non lo portavano il velo. Allora, in quei casi... Qui bisogna distinguere, è chiaro che chi viene a vivere nel nostro paese deve rispettare innanzitutto le leggi del paese, come dovremmo rispettarle noi, a cominciare dal Presidente del Consiglio, che non lo fa. Altra cosa è una cultura che c'è in altri luoghi, in altri posti dove hanno un concetto, tradizioni, storie, concezioni della famiglia, dei legami, della vita e della morte completamente diversi dai nostri. Ora, che noi si arrivi da 10.000 km di distanza e si pretenda di imporre lì i nostri valori, a me questo sembra non solo sbagliato, ma sembra veramente un totalitarismo pesantissimo, insomma. Cosa diremmo noi se venisse qui un ayatollah e ci dicesse ma voi non avete nessun rispetto della dignità della donna perché la vendete a pezzi e bocconi come quarti di macelleria nelle vostre pubblicità, nei vostri film, nei vostri giornali? Gli diremmo, caro ayatollah, questo problema, ammesso che sia un problema, ce lo gestiamo noi, non deve essere tu che devi venirci a dire. Esatto, noi... anche perché queste che lo fanno ci guadagnano dei bei soldi, insomma. Ecco, volevo farti un'obiezione però. Paul Berman, che immagino tu sappia chi è, insomma, un intellettuale liberal americano, ha scritto recentemente un libro in cui attacca la pavidità degli intellettuali occidentali, soprattutto europei, di fronte alla persecuzione di cui sono oggetto i musulmani liberali, come nel caso di Ayaan Hirsi Ali, che è costretta a vivere nascosta, sotto scorta, perché si è schierata contro l'Islam, no? Quando ci fu la fatwa contro Rushdie, ci fu un'insurrezione generale di scrittori, intellettuali in tutto il mondo a favore di Rushdie. Adesso si direbbe che gli intellettuali occidentali di queste cose se ne freghino o voltino la testa dall'altra parte. Tu sei d'accordo su questo? Non si tratta di voltare la testa di un'altra parte. Lo diceva Levi Strauss, che non era un estremista talebano, ma un filosofo, antropologo, che conosceva molte popolazioni e molte culture. Ogni cultura è un insieme di elementi con contrappesi e compensazioni. Tu non puoi togliere da una cultura una cosa che a te non piace senza modificare tutti gli altri elementi e alla fine distruggerla, come per esempio è avvenuto in Africa nera. Se le donne musulmane vorranno liberarsi del velo, lo faranno a un certo punto, ammesso che lo vogliano, perché vedi, noi abbiamo una cultura, è la nostra, è fatta sull'individualismo, eccetera, eccetera, è la nostra cultura, ma altre culture privilegiano i legami sull'individuo, insomma. Sono due concezioni del mondo completamente diverse. Ecco. Bene, noi ringraziamo Massimo Fini, buona domenica e a presto. Ciao, arrivederci. Una buona notizia sulle pagine del Guardian: nelle isole Galapagos le tartarughe giganti, che negli anni 70 si erano ridotte a una quindicina, si sono riprodotte grazie all'intervento degli scienziati e dei biologi che hanno aiutato questo ripopolamento, e sono ormai 1500. In pratica si è come invertita la freccia del tempo e si sono riportate queste isole al momento in cui vi sbarcò Charles Darwin. Chissà come sarebbe contento il teorico dell'evoluzionismo, forse lo consolerebbe degli attacchi che sta subendo da parte dei creazionisti. E per oggi è tutto, ringrazio Vittoria Mussini in redazione e Pietro Lacorte in regia. Vi do appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buona domenica e buona settimana da Riccardo Chiaberge.